so che no, non sarò mai. Hai provato ad essere la sola verità, ma è solo il tentativo di clonarmi la realtà. Hai giurato l'albi su di me, abbandonando solo il mio silenzio. Silenzio, ho creduto la mia verità. Rivoluzione, nessun inganno vincerà. sottovoce di vetro.